questo è, diciamo, l'ultimo atto per noi di un impegno che è iniziato ormai un anno fa, nel momento in cui hanno presentato il primo testo di legge. È una legge che per alcuni versi recepisce anche nostre richieste, tipo l'annullamento, diciamo, dei piani vigenti fra qualche anno, però è una legge che d'altra parte non fa quello che noi aspettavamo, cioè mettere un tetto chiaro e vero al consumo di suolo. Nonostante venga detto che ci sarà un limite di 70 km quadrati consumo massimo di territorio, in realtà questo non avviene, perché è una legge piena di deroghe temporali, perché per i prossimi 3 anni di fatto ci sarà una sorta di accelerazione ai percorsi, perché i sindaci avranno strumenti semplificati, quelli introdotti da legge, e tutto quello che si realizzerà non sarà contabilizzato in questo limite di legge. E poi ci sono tutta una serie di deroghe agli stabilimenti produttivi, agli ampliamenti di attività esistenti, a interventi anche molto ampi che la regione giudica come strategici. Per capire, forse a Bologna avete in mente la Philip Morris, ecco, interventi come questi sfuggerebbero completamente dalle maglie di questa legge, e quindi noi saremo lì per sensibilizzare, come abbiamo già fatto con le nostre osservazioni, i consiglieri per stringere in modo drastico le maglie del consumo di suolo, perché la nostra regione ha già dato abbondantemente e non possiamo più permettercelo. L'iter di questa legge, insomma, è stato anche relativamente lungo, con alcuni consiglieri sia, diciamo, prima di maggioranza anche di opposizione, che hanno tentato di emendare questa legge, ma sì, come dire, sì, non è stato sufficiente? No, allora intanto sì, ho detto che io ringrazio anche i consiglieri con cui abbiamo fatto pezzi di strada, come dicevo, sia nella fase preventiva alla presentazione della giunta, noi abbiamo fatto delle osservazioni, sia dopo che è stata poi presentata la giunta, noi abbiamo mandato osservazioni, e alcuni consiglieri di tutti i partiti hanno recepito alcuni passaggi. Ad esempio, noi abbiamo chiesto di restringere la possibilità dello sprawl, cioè abbiamo chiesto che eventuali nuove edificazioni passano a fianco dell'esistente, non in mezzo alla campagna, e questo è stato recepito. Però rimane tantissimo da fare, come dicevo, gli aspetti fondamentali della legge non sono stati modificati. E spesso quando si parla di consumo di suolo, in un'epoca però che viene da una crisi economica che forse non è neanche finita, ecco, si contrappongono le ragioni dell'economia alle ragioni, appunto, dell'ambiente. Ma sono per forza antitetiche? Io direi di no, da una parte, perché effettivamente bisogna puntare sulla rigenerazione urbana, e avviare una stagione di riqualificazione dell'esistente vorrebbe dire fare anche ripartire in parte l'attività edilizia, cosa che tutti ci auspichiamo. L'altro aspetto è che esistono veramente tantissime zone inutilizzate, capannoni vuoti, per cui non si capisce perché un'azienda che deve realizzare un nuovo capannone o creare nuovi posti di lavoro, su cui tutti noi auspichiamo che questo avvenga, perché deve andare però sul suolo vergine, che utilizzi capannoni vuoti e già esistenti. Peraltro alcune ditte importanti della nostra regione che non hanno problemi, diciamo, economici, ma hanno le spalle larghe, penso ad Alcenero a Bologna, penso alla Chiesa dei Farmaceutici a Parma, penso a Pizzoli, sempre nel bolognese, stanno facendo delle operazioni per cui le nuove sedi vengono fatte in zone degradate che loro recuperano, perché un imprenditore illuminato oggi guarda anche queste cose. Forse vale la pena anche di ricordare ad ascoltatrici e ascoltatori quali sono le conseguenze principali del consumo di suolo. Sì, fondamentalmente il suolo intanto è un bene finito e, ricordiamocelo, non rinnovabile, perché una volta che è perso non ci vogliono migliaia di anni perché si riformi, e ci regala una serie di servizi fondamentali, di cui il primo è la produzione di cibo, ma anche la bellezza del paesaggio, o oggi lo vediamo anche la capacità di assorbire acqua quando piove, perché nel cemento l'acqua scivola velocemente e arriva subito ai corpi idrici finali. Il suolo è una sorta di spugna, per cui anche questo è un servizio fondamentale che noi perdiamo ogni volta che cementiamo. Questo è il tema grande di questo periodo, soprattutto alla luce anche dei cambiamenti climatici.